Finalmente. Siamo arrivati, siamo in trasmissione. Questa è la nostra sigla 105.7 Radio Cirona. Siamo ritornati in trasmissione, come sempre in missione per conto di Dio. Noi siamo i Mozilla Bros, il gruppo nerd blues che si ispira ai mitici Blues Brothers. E qui siamo stasera in trasmissione. Finalmente ci siamo riusciti, carissimo Andrea Blues. Siamo più bluesman che nerdman, insomma. Il dominio stasera è letteralmente blu, poco nerd, pochi circuiti. Occhio alla regia, comunque. Poco verde e nero stile Matrix. Vi salutiamo qui in trasmissione con la grandissima formazione, con il nostro centravanti di sfondamento Ciccillo alla regia. Ciao. E il grandissimo Andrea Blues qui. Ciao con me. Ciao a tutti. E poi ovviamente no, il basta, nostro. Siamo noi, basta. Io e te, ma come faremo senza di lui, senza la prorompenza del blues? Quale? Direi, non lo so, 3.000, 4.000, ma anche di più. Eh sì, per ricordare te, un altro bluesman che faceva la trasmissione con noi, Natale, che salutiamo sempre. E facci un saluto, Lorenzo Blues. Buonasera a tutti quanti. Anzi, come direbbe uno dei nostri ospiti di routine, buonasera. Chissà se verrà. A proposito di ospiti in trasmissione, dovevamo averne uno di eccezione. Però non sappiamo se si presenterà. Sì, ma perché sai, questi bluesmen sono sempre imprevedibili. Non si sa, magari vorrebbero venire, lo dicono, ma non che non siano uomini di parola, assolutamente. Ma il bluesman alla fine, come fa ad essere prevedibile? Non può essere. Guarda, lo so benissimo perché esco con te il giorno, quindi so. E io esco con te. Esatto. Vabbè, lo diciamo chi doveva essere qui: il grandissimo, unico, inimitabile Fernando Blues, la leggenda del blues cosentino. Che salutiamo calorosamente, lo invitiamo se ci sta sentendo a farsi vivo. Noi saremo sempre con le porte aperte. Cominciamo dunque con i saluti. Salutiamo soprattutto il nostro locale di fiducia, il grandissimo Jazz Café di Cosenza. Ciao Diego e ciao a tutti quelli del Jazz che ci dovrebbero ascoltare. Ci hanno detto che ci dovrebbero ascoltare, dovrebbero mandare la nostra trasmissione in filodiffusione. Questo speriamo sia un bene per noi e per loro, perché comunque le nostre facce sono, non dico conosciute, ma quasi. E dopo questi saluti c'è Ciccillo che sta aspettando col... No, io mi sto godendo la musica. Ah, va bene. Direi che possiamo cominciare con i primi pezzi della puntata. Sì, questo pezzaccio è stato dedicato, anzi dovrebbe essere dedicato a un altro dei nostri nerd di fiducia, che l'anno scorso è venuto qui più volte in trasmissione, Lord Zen, che ce l'aveva chiesta tipo ad ottobre, a novembre, che non avevo mai mandato. Ma con questo 2012, questa apocalisse, abbiamo deciso di accontentarlo. Questa è Comfortably Numb dei Pink Floyd, solo ed esclusivamente per Lord Zen. Hello. siamo cominciati non alla grande, di più. Di più, con i Pink Floyd. Non si può iniziare una trasmissione meglio, credo. Perché al di là del blues, di tutto quello che ci abbiamo intorno, beh, i Pink Floyd sono sempre all'apice di qualsiasi stile e tecnica musicale. Che poi blues, nel suo significato, può comprendere anche questa canzone. Per dire che non è metricamente blues non vuol dire che non la senti nell'anima. Esatto, esatto. Perché sappiamo benissimo noi cos'è il blues, vero? E lo sanno anche chi ci ascolta. Beh, che dire... Questa è la nostra missione, vero Lorenzo? Sì, esatto. Che dire di questa canzone? Se non che è una canzone... Ha detto di alcuni addirittura la canzone di Pink Floyd, cioè quella che rappresenta proprio Pink Floyd. Io personalmente avrei qualcosa da ridire, perché... Non si sa magari in giro, però io credo che l'album dei Pink Floyd, anzi vabbè, questo si sa in giro, l'album dei Pink Floyd per eccellenza è The Dark Side of the Moon, sappiamo benissimo, no? Ma guarda, è difficile scegliere proprio fra tutti quegli album uno. Certo, Dark Side ha avuto la sua storia, ha avuto la sua importanza. Esatto, chi non conosce i Pink Floyd ha comunque visto il prisma con il raggio di luce e l'arcobaleno, vero Cicil? Sì, sì. Ero intento ad aprire una birra, come al solito mi beccate nei momenti meno opportuni. Lo facciamo apposta noi. Che dire di questo pezzo, quindi, se magari partiamo proprio dall'assolo, dalla parte finale che sale. Piccolo aneddoto sull'assolo. Sai, l'anno scorso c'è stata una grande tour, probabilmente l'ultima, ai noi, dei Pink Floyd, che Pink Floyd, oddio, in realtà Roger Waters. Ho sentito qualcosa, era proprio Cicillo che apriva la birra, insomma, vabbè, non ci stiamo assolutamente alcolizzando, sappiate. Vabbè, Pink Floyd e birra, ci sta, ci sta. Siamo gente seria. Cicillo vai col sottofondo. C'è il sottofondo. C'è? Il nostro sottofondo. Senti, wow. siamo in missione per conto che di che atmosfere. Che stavi raccontando questo aneddoto? Un certo zio David Gilmour, ha proposto di suonare l'assolo a Roger Waters, che praticamente si è arrogato il diritto di essere lui l'anima dei Pink Floyd nell'ultimo periodo, quindi ha fatto The Wall da solo. Cioè, picchi? Perché? Come? Come dargli torto, però, Sì, ma i Pink Floyd non sono uno. Sono mai stati uno. Lo sappiamo benissimo, perché sono partiti con quel genio pazzo e ribelle che era Syd Barrett. Cioè, da lì comunque... Chissà perché ti piace Syd Barrett. Da lì comincia tutto quanto la follia dei Pink Floyd. Poi comunque Gilmour, Waters, Mason, insomma, anche Wright. Wright, anche loro ne sapevano qualcosa. Ne sanno tuttora qualcosa quelli rimasti in vita, che sono rimasti solo purtroppo in due. No, sono rimasti in tre. Anche Mason. Mason, sì. Che ancora campa. Bene, è un simpatico vecchietto. Dopo questo necrologio direi che possiamo passare. No, ritorniamo all'aneddoto. Ritorniamo all'aneddoto. Praticamente gli ha detto David Gilmour, che ha un cuore grande, forse più di quello di Roger, sai Lorenzo? Perché gli ha detto: suona con me un tour di beneficenza e io ti faccio una data del tuo The Wall in cui ti suono la solo di Comfortably Numb. E l'ha fatto. E certo, ci poteva dire no. Cioè, come ci dici no. E l'ha fatto. Io ho visto anche il video di questo spettacolo fantastico. Si può trovare su YouTube per chi purtroppo se l'è perso. E c'è una scena bellissima in cui appare David Gilmour in alto su questo muro, che alla fine è un mega schermo, e mentre comincia a suonare la solo di chitarra c'è sotto Waters che batte forte su questo muro e il muro si spezza. Wow. Fantastico, fantastico. Accogliamo volentieri adesso la richiesta di Cicillo, che era prima. Stavi dicendo metal? Ma anche no. No, non era il metal, era passare al prossimo pezzo, vero? Yes. E questo è? Ce lo dici tu? Yamon in a New Orleans, questa è la traduzione, diciamo, generale. Quindi questo mi sa che è un pezzo che conosciamo bene, conoscono anche i nostri ascoltatori. Noi lo riproponiamo. Se non lo conoscono lo impareranno. Lo impareranno ora, sì. Come, brother, come with me. Let's see to the world and let's go to New Orleans. This big woman feeling so bad, hers and two, they're feeling so bad. And now do you know, it seems like a tale of the wind. Woman, do you know, a sweet and hurt is crowned for him. A hurricane in a day, a hurricane, dark in the sky, it's asking me to cry. So I remove a hurricane leaves, but the memory of the bad days, they remains forever in New Orleans. Do you know, it seems like a tale of the wind. Woman, do you know, it's with unhurt, it's crying for him. Wow! E siamo andati così a New Orleans. Siamo andati e siamo tornati con una regia oggi davvero impeccabile rispetto all'altra volta. Poi zi, ti va su certi attacchi con po' capì. Spettacolari, zi. Spettacolarissimi davvero. Questo qui era Let's Go to New Orleans. Pezzo di? Del grandissimo Alex Cipollari. È del suo gruppo Delta River Blues Duo. Quindi ricordiamo, suona insieme a Costantino Raponi, ricordiamolo. Grande armonicista. Sì, grandissimo armonicista. Il blues non è morto. Blues never dies, beh. Blues never dies. Noi non pretendo dire che ne siamo la testimonianza, ma musicisti seri, sì, come Alessandro, ne sono la testimonianza. È venuto qui e lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato benissimo. Noi siamo come al solito i Mozilla Bros 105.7 per chi ci ascolta su Frequency Modulation, gli FM, oppure www.ciroma.org, www.mozillabros.com in streaming e anche in ripetizione in podcast. Se li trovate sul sito podcast, se non posso garantire nulla. Esatto, perché non è colpa tua e lo sappiamo benissimo, è colpa di un altro bluesman. Se andate sul nostro sito e cliccate sulla pagina Bros, vedrete una serie di volti da pazzi da manicomio. Che compariva il primo, quello di Matteo, che salutiamo sempre. Ma il secondo è quello di Natale, che ancora non sta aggiornando il sito, perché dovete sapere che la responsabilità del sito ricade su Natale. Ora, non essendo qui, essendo a conoscere altre 300.000 persone, insomma, 3.000, insomma, beato lui. A Milano, vabbè, al lavoro, dice lui a lavorare, ma se il suo lavoro è cercare contatti è vero, sì, sta lavorando. E lì a Milano non ci dà le password per accedere al sito. Noi siamo. No, mi ha richiesto effettivamente di consegnargli la mia chiave pubblica. Gliel'ho consegnata, ma boh, da quel momento sono cadute le comunicazioni. Non lo so, forse. Forse capì. È arrivato a 3.000, deve ricominciare il ciclo, deve partire di nuovo da zero, insomma. Le sue e i suoi contatti. Ma bene, dopo questo inizio molto ma molto blues, dobbiamo ritornare un po' in quella che sono i canoni della nostra trasmissione, vero Cicil? Sì, no, allora, innanzitutto io dico che come unico esponente nerd oggi c'è anche un perché. Inconsapevolmente anche noi nerd dei Mozilla Bros ci siamo messi d'accordo, perché oggi è la giornata mondiale praticamente in cui tutte le grandi, come dire, organizzazioni che... E quindi anche i Mozilla Bros. Assolutamente. Infatti non volevo assolutamente sminuire il nostro ruolo all'interno del web e del mondo nerd. Chiamoli anche come Ciotoflow, perché alla fine no, siamo... come Ciotoflow lasciamo stare picchi. E chi lasciamo stare? Vabbè, forse... dai, sì, no, continua. Oggi è la giornata mondiale delle azioni contro il SOPA, di cui abbiamo abbondantemente parlato, e se volete avere... Chi è che non sa cos'è il SOPA? Tu ancora non lo sai. No, chi è che non lo sa? Cioè, su Three Mesi che mi parlavo, non lo so, insomma. Ah boh, suvo Dio, un po' pure. Sì, Dio. No, ma allora io ripeterò cos'è. Nel frattempo vi invito in ogni caso ad andare sul sito di Wikipedia per vedere. Per vedere che non si vede. Per vedere che non si vede e per capire anche voi direttamente cos'è il SOPA. Perché appunto oggi questa giornata mondiale ho appreso poc'anzi che anche la Microsoft è contro la aiuto. SOPA. Quindi dovrò rivedere le mie posizioni forse contro no, la SOPA. No, io direi di no, però insomma. Infatti un piccolo aneddoto dell'ultima ora, mentre stavamo accendendo i computer, siamo andati su internet dal computer di Cicillo, normalmente l'home page, che è l'home page di default del suo browser Linux, Iceweasel, se vogliamo precisare, perché noi nerd puri usiamo Debian. No, attenzione a quello che dici, perché quasi potrebbero scatenare diatribe infinite. Sì, diciamo sì. Che io uso te. E io pure, e anche Carol. Non lo sapete che anch'io. No, tu sì. Però non so cosa è un terminale. Andrea Blues da Zallaro Cosentino, che è, come Natale usa Kubuntu con la K, con KDA. Insomma, si è oscurata questa pagina, è comparsa una bellissima animazione che diceva stop censorship, stop censor. Appunto, se riuscite a vedere il sito di Wikipedia, è un bene, perché comunque anche Wikipedia è uno dei siti che protesta contro questo SOPA. Sono... che pezzaccio che ha messo Cicil, insomma. No, oltretutto questa di Wikipedia era un'azione che abbiamo anche noi annunciato tempo fa. Nel senso, era una cosa che gli amministratori di Wikipedia delle pagine inglesi, quindi inglese, sì, penso sì, anche americano, avevano già preannunciato che avrebbero fatto contro questa misura restrittiva per quanto riguarda la libertà del web. Così come anche Wikipedia italiano ha fatto. Sì, Wikipedia italiano, ricordiamo che lo fece nel momento in cui in Parlamento da noi andò, sì, a finire quella che era la legge bavaglio, che avrebbe messo praticamente fine a quelle che erano le libertà del web, insomma, esatto, in Italia, del blog. Del blog, solo che comunque tu mi dicevi prima che quello che stanno facendo ora sta avendo effetto. Sì, in un certo qual senso sì, perché si leggeva nei giorni passati che c'erano da parte dei promotori appunto della legge in America, c'erano la volontà di fare molte marce indietro, e in particolare per esempio ci sarà la marcia indietro per quanto riguarda i siti che pubblicizzano i link per vedere gli stream di video, eccetera eccetera, insomma, anche se questo ovviamente non basta a chi si contrappone a questa misura, che comunque per quanto possa essere leggera alla fine, nel momento in cui speriamo non passerà, comunque rappresenta un piccolo precedente per quanto riguarda l'ammanettamento delle libertà digitali e del web, quindi insomma questa legge deve essere completamente cancellata. Esatto, sono sempre saranno piccoli passi indietro per loro, beato te che mangi Cristini, però sono comunque passi contro quella che può essere chiamata la libertà digitale, vero? Sì, assolutamente, insomma, cioè non avere la possibilità di pubblicare quello che si vuole, se non, cioè, per poi incorrere in quella che può essere una censura del tutto arbitraria e preventiva, senza nessun criterio da parte di chi gestisce i domini, insomma, è una cosa allucinante. Il criterio ce l'hanno, non è che, cioè, vogliono censurarti perché hai pubblicato qualcosa che va contro quello che loro rappresentano, che loro vogliono, insomma, come dire... vogliono sponsorizzare, perché se tu mandi in streaming un film che è appena uscito, chiaramente invece di andarlo a vedere al cinema, chi non vuole vederlo al cinema se lo può scaricare, se lo può vedere in streaming, perché c'è comunque questa cosa qua. Della serie This is Democracy. Esatto. A dove? Esatto. Ma dove? Io navio. Andrea Blues se ne è uscito con una sparata proprio formidabile su quello che è... Oddio, questo... c'è l'interferenza, aiuto! Questo è Cicillo che... Voglio un momento. Che cosa sta succedendo, Andrea Blues? Cioè, chiunque stia ascoltando, intervenga. No, questa è una chiami versione, la forza dell'ordine. È una versione che si chiama Possessed Cover della colonna sonora dell'Esorcista, diciamo. Ah. Che ha voluto proporvi, diciamo, come piccola chicca personale. Adesso ritorniamo tranquillamente sul sottofondo blues. Non mi preoccupare. Non ci sono problemi. Mi piaceva l'arpeggio iniziale, sì, diciamo. Sì. Era confortante. Chiunque si oppone a questa musica arrivata qui non si sa come, non si sa soprattutto perché, può chiamare allo 0984 28 250 Hotline con Cicillo. Hotline con Cicillo. Se volete, facciamo un salto attraverso lo specchio, che poi non è uno specchio ma un vetro, e veniamo a rispondere anche io, Andrea Blues. In ogni caso, noi siamo i Mozilla Bros, siamo in missione per conto di Dio 105.7. Certo. Dopo aver parlato di libertà digitali, e ogni volta che parliamo di pirateria, soprattutto ora che si parla del SOPA, che sarebbe lo Stop Online Piracy Act. Cioè, sì. Dici bene. Stop all'atto della pirateria online. Sì, è una legge appunto che si oppone a quella che può essere la pirateria online. Esatto. Mi viene ogni volta il volantino che si fece il 5 novembre quando il grandissimo Ono Sendai, che salutiamo, che manca questa sera insieme a Garuf, insomma a tutti quelli del... Ciao Garuf! Insieme a tutti noi di questo gruppo pseudo nerd facemmo. E quando questo volantino andò in giro per Cosenza, c'era scritto: voi la chiamate pirateria, noi la chiamiamo libertà. Vabbè, si commentava da solo. Esatto, esatto. Perché poi ci portano alla pirateria. Ma è chiaro, cioè non è, che poi non è pirateria, appunto, come diceva il volantino, è libertà. Cioè uno deve essere libero di fare ciò che vuole, o sbaglio? Certo. Bene, dopo questa piccola digressione nerd, per cui abbiamo anche spiegato il perché sono solo io, anche i nostri Garulf e Ano Sendai hanno deciso di prendere parte. Scusa, Ano Sendai. Ano Sendai, sì. Hanno deciso di prendere parte a questa protesta nazionale, intermondiale contro il SOPA. Sono rimasto solo io a fare un po' la regia. Diciamo che oggi vi concediamo il blues, dai ragazzi. Se ce lo dici così ci inviti a nozze. Ma prima forse dovremmo parlare, caro Lorenzo Blues. No, ne parleremo dopo. Io direi che possiamo mandare pure un pezzaccio, vero? Dipende dal pezzaccio. C'è Cicillo in regia, io temo un po'. No, hai avuto paura, non me ne faccio più. Hai avuto paura per prima, ma adesso scommettiamo. Ci ha provato prima, ma buono. No, vabbè, ma d'altronde non era molto casinara, dai. Questa è From the Beginning. Wow. Emerson, Lake and Palmer. Era meglio l'esorcista, vuoi? A giocare. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said But there it is You see it's all Thank you. just can't recall. It doesn't matter at all. Mangiare, cioè fai la regia come si deve, per favore. Sono quasi impeccato. qui si scherza, siamo sempre noi, Mozilla Bros 105.7 su Radio G Roma FM, oppure www.mozillabros.com ripetizione su Radio Transizione di Fase lunedì alle 20 e su Fuori Onda Radio venerdì alle 16, anche se non so effettivamente di quanto sto dicendo. E questi erano gli Emerson, Lake e Palmer con From the Beginning. Cosa dice Andrea Blues? Beh, questi erano i grandi Help, che era il sinonimo ELP, l'acronimo. L'acronimo, sì. Esatto. Come posso dire? Che commento vuoi fare di questa canzone? Devo commentare? Sì, devi commentare. Dovevi essere qui Dall'inizio. Esatto. Non dico altro, va bene, continuiamo. Esatto, questo gruppo. Parliamo un po' di loro. Sì, questo qui era un super, quello che viene comunemente chiamato super gruppo, perché è il risultato di ciò che artisti dalle doti eccelse hanno creato. Questo gruppo ha avuto un'attività, diciamo, negli anni 70, proprio dal 70 al 79. E poi comunque qualche apparizione negli anni 90 e dal 2010 sono di nuovo in attività. Pensate un po' che addirittura il grandissimo, l'unico inimitabile, cioè veramente quando dico questo è quasi, bene proprio lui, quasi mi sciolgo, senza quasi. No, effettivamente è proprio basta che non fai altro. No. Stai tranquillo. il grandissimo, unico Jimi Hendrix aveva in mente di unirsi a questo super gruppo, soltanto che poi la sua prematura e improvvisa morte gliel'ha impedito. Però loro hanno comunque suonato, hanno continuato. Con un album d'esordio chiamato proprio come il nome del gruppo, Emerson, Lake & Palmer. Proprio negli anni 70, nel 1970, con una memorabile apparizione al festival dell'isola di Wight, il grandissimo festival. Perché soprattutto loro sono molto importanti, e abbiamo sentito di cosa sono capaci. Ma loro sono uno di quei gruppi degli anni 70 che hanno segnato un passaggio dal classic rock, quello sviluppato dalla Chicago degli anni 50, dal sì, blues, il rock and roll, diciamo. E dal rock and roll a un altro tipo di rock. Eh sì, effettivamente. Dopo Jimi Hendrix è cominciato il prog. E infatti lui voleva andare non per caso. Loro, questo gruppo, ha segnato il passaggio del rock and roll, poi con Jimi Hendrix in hard rock e poi comunque con loro in rock prog. A prova di questo, il bassista di questa formazione, ovvero Greg Lake, veniva dai King Crimson, che è un altro gruppo prog di importanza, direi, un gruppetto così, sì, di passaggio, un altro gruppo che ha solo fatto la storia del rock. Sì, come ben sapete, noi Mozilla Bros non ci fossimo. Voglio usare un termine proprio brutto, fossilizziamo solo sul blues, anche se profondamente abbiamo l'anima blues. Però passiamo anche pezzacci rock, rock prog, rock and roll, hard rock, soul, funky, insomma, jazz. Diciamo che se le radici sono quelle giuste, sono quelle prosperose, poi si arriva fino alle foglie. Esatto. Si passa dal tronco, dai rami, dalle foglie, no? No, quali sarebbero le foglie, voglio capire. Quello le che hai messo prima, dai. Cosa? Sì. Le foglie, non lo so, può essere anche il punk. In qualsiasi momento. Anche il punk può essere una foglia dal blues, ma perché le radici sono quelle. Stai tranquillo, comunque, Cicillo, Questo super gruppo era semplicemente formato da percussioni, tastiere e poi il grandissimo Greg Lake, che suonava basso, chitarra e cantava. Chiaramente non poteva suonare basso e chitarra contemporaneamente perché le braccia non glielo consentivano, ma comunque era lui che, insomma, dominava la scena, era il frontman. Questo sottofondo ti dice nulla? Beh, qualcosa me la dice. Loro sono gli Araya Hip, che è un gruppo che abbiamo messo anche per soddisfare, diciamo, un po' le pretese di Cicillo, che mi fa la regia. Quindi ti vogliamo bene, Cicillo. Grazie. Te lo dimostriamo così. Con questo gruppo che è stato fondamentale nella nascita del metal. Esatto. E dell'hard rock. Diciamo che è stato uno dei primi gruppi heavy metal del forse diciamo, nel quella parte di nicchia dei nostri ascoltatori avrà riconosciuto questo nome, Araya Hip, che è un personaggio letterario creato da Charles Dickens al suo romanzo, nel suo celeberrimo romanzo, David Copperfield. Esatto. C'è da dire comunque che questa canzone non è proprio metal, ma è una bella canzone rock, no? Come il rock che ci piace tanto. Ma non abbiamo detto che è una metal, eh? È anche una band metal, diciamo. È quella Wikipedia che ci dice hard rock, heavy metal, rock progressivo, rock psichedelico, Wikipedia, dopo aver visto il comunicato che hanno fatto, è oscurato Wikipedia. Vabbè, ce lo diceva quando funzionava, non è che noi stiamo leggendo adesso su Wikipedia, scusa. Diciamo come prima gli Help hanno segnato il passaggio da hard rock a rock prog. Questi stanno segnando il passaggio. Cioè, l'hanno fatto da loro. Hanno segnato dal il passaggio rock all'hard rock, spianando la strada. Se vogliamo metal, dire. Dai. Sì, spianando la strada di un certo Ronnie James, se vogliamo. Perché era quel periodo lì. Diciamo che era quel periodo lì, non dico altro, mi sto emozionando. Esatto. Non dico altro. Ritornando in trasmissione con questo sottofondo blues che comunque è trama di tutto, vi proponiamo questa sera un pezzo che è unico nel suo genere, cioè di un artista che è unico nel suo genere. Tu sai a chi mi sto riferendo, non lo diciamo, lo facciamo scoprire a chi ci ascolta. Ancora non ho capito Lorenzo Blues cosa hai nella testa. Lo sentirai, va bene? Capire la tua testa non è facile. Non è affatto facile, esatto. E questo è un X. Pezzo. È X? Ok, X. Di grandura. Lorenzo Blues mi hai stupito, mi hai stupito. Mi sembra di viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline in un insieme irridente di parche voglie. Celebro il mio vanto, i miei sensi, la mia unicità. Furono giorni di stanchezza assurde e depressive, di una totale mancanza di lucidità. Quando ti chiedi in qualche letto sconosciuto che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità, sapessi che dolore l'esistenza che vede nero dove nero non ce n'è. Il fatto è che non posso più tornare indietro, che non riesco a vivere con te né senza di te, credimi. Vomitare critiche insensate, parlare e dire solo sempre inutili cazzate, per un bisogno quotidiano di tensione, in questo sfoggio naturale di pazzia, ci si può difendere innestando il modo dell'indifferenza, contro questa crescita esponenziale di follia e di violenza, può ritornare indietro all'antica pazienza. Vorrei tornare indietro, ma io vorrei essere un'aquila, vedere il piano del mondo che inclina verso di noi, e le leggi che si inchinano, lanciarmi a inseguire il tuo deserto, e i saperi solenni, e le porte dorate, cominciare di nuovo il viaggio. Sapessi che dolore l'esistenza, che vede nero e nero non c'è. Il fatto è che non posso più tornare indietro, che non riesco a vivere con te né senza di te, credimi. Ed eccoci di nuovo. Stavo dicendo online perché ero quasi abituato ai miei vecchi standard, diciamo. Vabbè, dai, siamo di nuovo in onda. On air, si può dire benissimo. On air. Ok, quasi diremmo. 105.7 FM, qui Radio C Roma. Qui è Cicillo in regia. Ai microfoni, i miei microfoni blues, ci sono Lorenzo Blues e Angle che si sta appena non diciamo cosa sta facendo, però non è successo niente, sta ritornando in trasmissione, ha semplicemente espletato cose, mi sono ricompastonato assolutamente sì, qui sono di nuovo i Mozilla Bros. Siamo sì, assolutamente, devo dire la verità, Franco Battiato è uno di quegli artisti assolutamente poliedrici, anche se non ho capito ancora il termine poliedrico perché si usa, perché ho studiato da poco i poliedri cosa sono e sinceramente non è che abbiano molto a che fare con queste molte facce, no? No, perché indagherò, aspetti, no? Indagherò quando uno dice che ha molte sfaccettature, no? Come un diamante che ha parecchie. Sì, vabbè, però se vogliamo fare i colti possiamo dire che deriva dal greco. Ecco, allora al greco poliedros. Però diverse forme, no? Ah, quindi questo, perché no? Io, vabbè, molte forme. Ho studiato, vabbè, lasciamo stare cosa ho studiato perché. Perché tu non hai studiato. No, diciamo. No, queste cose. Sebbene ingegnere Cicillo non ha mai studiato in vita. No, stiamo scherzando, chiaramente. E il greco non l'ha studiato perché non ha avuto una formazione classica come invece gli altri due della trasmissione che sono qui con voi. Insomma, almanacchisso serva, diciamo, su cazzi liceo classico, no? Esatto. Diciamo che più che poliedrico possiamo dire di multiforme capacità. Bravo, multiforme. Come lo era il grandissimo Odisseo. Comunque, l'eroe multiforme, sì. Multiforme in genere. E se vogliamo è anche un eroe lui, è un eroe perché il musicista è uno dei pochissimi musicisti, ma come abbiamo detto non solo musicista, che si è estraneato da quella, sì, che da quella che è la realtà di oggi, dalla società corrotta. Esatto. Comunque, giusto perché per fare un riassunto, stiamo parlando di Franco Battiato, perché il pezzo era di Franco Battiato. E vergogna su chi non ha riconosciuto il maestro. Era stage door. Abbiamo potuto apprezzare i diversi generi che ha toccato in un solo pezzo. Cioè, dalla musica leggera al prog, ma anche alla chill out. Nella strofa finale. Hai ragione. Scene di panico. Insomma, cioè, scena di panico anche perché ho questa foto di Battiato sullo schermo della regia, c'è dei Ray-Ban fenomenali. E proprio, cioè, anche, cioè, alla fine è blues. Chissà cosa ne pensa lui del blues. Avrei voluto tanto chiederlo, ma quando l'ho visto non... ricordiamo che è venuto all'università e al Teatro Rendano per la sua opera Telesio, che è disponibile anche in DVD, è uscito il pacchetto. A proposito di università, ma tu non ci devi dire qualcosa? Sì, è successo. Perché ieri è successo. È successo. Ieri è successo. Ebbene, è successo, davvero. Davvero. Ieri c'è stato il comico, anche lui, secondo me, di multiforme ingegno, Roberto Benigni all'università. Sicuramente anche lui è un personaggio, diciamo, ad alti livelli. Ah, compa, te mi sono perso un po' capito. Sì, però, Cicci, se mi dissipizzi così all'improvviso, Lorenzo Blusa si agita e chi non mantena. Siediti, Lore, siediti. Sì, sì, scusate. Cazzi, ok. dicevamo, ieri all'università è venuto Roberto Benigni. Lorenzo, calmati. Cicci, calmiamo Lorenzo. Sono calmissimo. Ti minaccio come con la musica. Minaccio, mi chiama il metal piace. Dicevamo, la nostra amata, la nostra cara università, la nostra unica. Per ricordare i nostri studi classici, amata e odiata, come diceva Catullo, odi e tamò. No, odiate e basta secondo i miei studi. Almeno gli studi che hai fatto io, odiate e basta. Vabbè. Forse sei tu che ami e odi qualcuno. Vabbè, lasciamo stare. Lorenzo Blues sta andando in panico. Dicevamo che ieri è stata assegnata al grandissimo Benigni una laurea ad honorem in filologia. per le sue doti poliedriche, caro Cicillo. Questo è il termine della giornata. E questo ci starebbe pure, se non che è stato pure pagato dall'università. No, vabbè, cioè, io non vorrei assolutamente polemizzare con il... Cioè, questa trasmissione stava andando tranquilla, diciamo, serena, però... Per l'ennesima volta in Trasacazzi l'università c'erano camionette della polizia. No, voglio dire, ma picchi. Ma non dando questo, ma perché un personaggio come Benigni, no? Che viene in un'università pubblica, posti riservati alle autorità e posti limitati per gli studenti. Cioè, che poi è una cosa assurda. Poi per un personaggio come Benigni, che poi questi posti sono comunque stati accaparrati da docenti e personale sì, universitario. Sì, appunto, appunto. Infatti combattiato, ed ecco che ritorniamo, perché i Mozilla Bros non fanno nulla a caso. Non quando a caso, Battiato, non a caso cadono le foglie di Lorien, per citare pure Tolkien, ma fanculo. Lorenzo Blues sta sparando a raffica la sua cultura classica, grande Lorenzo Blues. Chi blues che tieni? Quando è venuto Battiato la stessa cosa, erano rimasti fuori più di 100 studenti e lui ha aperto la porta davvero come un eroe, non lo so, sembrava Leonida, con i 300 di dietro, e ha detto: Spartani! Ma io, no, no, no, no, annicciasa tutti. Non l'ha detto proprio in questi termini, ma lo ha fatto dedurre. Ti sarebbe piaciuto che l'avesse detto in così? Avrei goduto ancora di più, ma basta averlo visto e toccato. In che senso? Guardo. Vabbè, ma io prova attrazione sessuale per Battiato. Vabbè, il maestro è sempre il maestro. E ha fatto entrare lui gli studenti rimasti fuori. Ma se non lo diceva egli stesso, cioè, chi se ne fotteva? No, ma infatti, cioè, ripeto, qui c'è un atteggiamento in ogni caso da parte delle istituzioni universitarie che... Cioè, queste qua sono feste private, parliamoci chiaro. Esatto. Il termine... Feste festini. Feste wow, festini. Ma senza wow. Ah, senza wow. No, senza wow. Per noi no, ma per qualcuno sì, forse. Per chi rifanno i word, insomma. Però forse comunque, per chi gestisce tutto l'ambaradam da 16 anni, forse wow c'è. Sì, assolutamente. Tu che dici? Che tu sì, il word, eh? Cici. Io mi sono fatto la doccia ieri, wey. Like a wolf trapped in his lair. But I don't fear no evil. No black hand calls me to fuss. Questa è l'ottima musica dei Mozilla Bros. Vi ricordiamo sempre ogni 5 minuti che siamo su Radio Ciroma. Siamo sui 105.7 FM di Cosenza, aereo urbano di Cosenza. Vi raggiungiamo da Rogliano a Tarsia, cazzo, sull'autostrada. E in tutto il mondo con il nostro streaming senza confini. Esatto. Gestito dai nostri nerd. Cicillo, grazie che tu fai gestito, parte. Gestito, diciamo che i podcast ancora latitano, ma comunque presto c'è al momento i podcast sono io, diciamo. Tu sei i podcast. Sì, l'uomo podcast. Quindi stasera in trasmissione siamo Lorenzo Andrea i podcast. I podcast, wow. Potremmo chiamarci così, sì. Insomma, dai. Siamo un po' avanti, avantissimo. Stavo considerando questo. Stavamo parlando di università. Nulla togliere alla laurea honoris causa a Roberto Benigni, perché comunque secondo me se la merita pure. Però il fatto che venga pagato mentre studenti che non hanno la possibilità, ragazzi che non hanno la possibilità di studiare perché non hanno fondi, non hanno borse di studio, questo. La cosa più bella dovrebbe far riflettere. È che il rettore, ma tutti i membri dell'elite. Membri? Soffermiamoci su questa parola. Tutti i membri. I membri. Sì, sono membri. Non nessuno lo può negare, sono membri. Dell'amministrazione, comunque, della gestione dell'università. Avevi detto benissimo. L'elite, sì, amministrativa, organizzativa dell'università, si fa la bella faccia. Ci dà malaurea a Benigni. Benigni viene a Cosenza. Grande università, grande campus, ma pochi dicono che nei giorni scorsi ci sono state delle proteste degli alunni per l'inefficienza dei servizi all'università e per il ritardo alle borse di studio. Sì, perché ricordiamo che davvero quest'anno... Quindi Benigni, Benigni, però prima di Benigni... È come Amici Amici, diciamo. Ecco, perfettamente. Benigni, Benigni, Benigni. Ecco, sì, penso che abbiate Diciamo che, come al solito, queste iniziative stonano con quello che succede attorno all'intero mondo universitario. Diciamo, se riusciamo per un qualche momento a astrarci da quello che è l'Unical, in generale l'università pubblica sta andando in sfacelo, quindi... In ogni caso, questa ostentazione di non so che cosa, queste sono ovviamente manovre politiche, perché la Torre potrà fregiarsi di aver invitato Napolitano, di aver dato la laurea a Benigni. E ricordiamo pure che quando c'era Napolitano c'era la stessa schifezza. No, molto di più. L'ateneo era veramente militarizzato, c'erano i cecchini sui cubi, cioè dal cubo 0 al cubo 20 c'erano i cecchini con quelli fuggiculini. E ricordiamo, per il massimo 403, per il massimo rappresentante della democrazia. Cioè, sì, evviva la democrazia! Ma non si possono fare certamente brutte figure ai cospetti del relatore, altrimenti si Esatto. Come avrebbe detto un Leonida dei tempi odierni. This is democracy. Vabbè. Oppure... Chissà Cosenza. Sì. Quella è la traduzione. No, comunque non vorrei che poi il Natale, sentendo il podcast, ci riprendesse di sovietismo, insomma. Per quanto a me questi temi sono molto cari, perché, ma insomma, a tutti noi sono cari, anche a Natale stesso, che oggi ci si innusa, lo sappiamo tutti. Occhio che squilla il telefono. Un momento di panico. Devo mettere l'altro sfondo. Ok, il telefono, lo sfondo, tutto quanto. Siamo comunque i Mozilla Bros in missione, per conto di Dio. Aia. Non squilla più il telefono. Sì, qua fanno gli squilletti intimidatori. Sì. E John? Tu dici che è John? John the Tower. John the Tower. È proprio lui. È Probid. È Probid, come diremmo noi rossanesi. Ma siamo a Cosenza, Lorenzo Blues. Rossano, lassalo a dove? Non ti raccomando. Insomma. Ci vanno squilletti anonimi che, e non si capisce chi sono. Questo sottofondo pazzesco che ci ha messo il nostro Cicillo d'avanguardia. Dai, alla fine mi sono comportato bene. A parte l'esorcista, ha saputo parlare, Cicillo. Questa volta hai saputo parlare, dai. Compreso l'esorcista, io direi che veramente si è comportato a alti livelli. È diventato blues anche lui. Non lo ammetterà mai perché è un soviet. Guardate, ma è un blues allucinante. È sempre stato blues. Cioè, a me la buona musica piace. Diciamo che preferisco per motivi caratteriali quello che può essere un determinato genere, però insomma. Genere protesta dark hard, Eevee, extreme, wow. La musica buona, quando è buona, insomma, non si può dire. Effettivamente non si può dire nulla alla musica quando è eccellente. Camidi, stiamo arrivando alla fine di questo. Cioè, gli ultimi granelli di sabbia sgocciolano dal tempo della nostra clessidra qui a Radio Ciroma. Siamo in Mozilla Bros, come mi piace ricordare sempre ogni 5 minuti della trasmissione. Siamo in missione per conto di Dio. Qui ci sono, ovviamente, qui Dio c'è testimone. Sì, qui ci sono Cicillo Blues. Salve. Andrea Blues. Ovviamente. E anche Lorenzo Blues, ma non ci salutare perché ci chiamano. Finalmente la trasmissione ha la sua telefonata in diretta. Pronto? Ti sentiamo. Non ti sentiamo più. Pronto? Pronto? Pronto? Sì. Mi sentite? Sì. Pronto? Gran salve, buonasera. Grandissimo, caro Wolf. Sì, devo fare le mie scuse, ma sono stato impossibilitato a raggiungere la postazione di radio oggi. Diciamo che stai protestando anche tu contro, sì, il SOPA, vero? Wolf, per non fare figure di merda, io ho detto che visto che oggi è la giornata internazionale, che tutti quanti protestano, anche è noi... È appunto quello che stavo spiegando. Sono un giudizio oscurato, perché oggi per esprimere il solito approvo alla SOPA, anch'io ho deciso di oscurarmi. Ho detto proprio questo. Ci siamo trovati senza esserci sentiti prima. Io ho detto infatti che sì, sia tu che l'altro che hanno Sendai, appunto, il gatto della volpe del mondo nerd, oscurati. E per salutare una mia vecchia conoscenza, direi il gatto, la volpe e la sgrigna, che in questo caso è Cicillo. Grazie. Fanno parte che tra l'altro è un compaesano di Garolf, l'autore di questa citazione. Per dire, wow, il gruppo nerd, il grande paese delle montagne, che è San Giovanni in Fiore, che mi rivendico con tutto il cuore e l'orgoglio. La base della nostra trasmissione, ricordiamolo. La base della nostra trasmissione. Però spero che comunque un po' di nerd ci sia stato in questa trasmissione. Dacci qualche news. Ci sei mancato. Sì. No, io ormai sono in protesta, non posso. Giusto per protesta. Per aggiornare anche gli altri ascoltatori che si sono messi in ascolto solo adesso, abbiamo semplicemente parlato del SOPA e di quello che sta succedendo in tutto il mondo con i siti come Wikipedia, Google. Poi Google, vabbè, Mozilla, che sulla sua home page di default, non quella che settiamo noi da bravi fancazzisti, riporta anche un link contro il SOPA. Grandissimo, esatto, Mozilla. E qui tieniti forte, perché tu non l'hai sentito, anche Microsoft si è schierato contro il SOPA. Non ci credo! Però con aspetti inquietanti, cioè proprio vale a dire quindi che... Quindi da domani tutti quanti con Windows 7 sulle nostre... Immaginavo, comunque una cosa che anche la Microsoft si stia lamentando dovrebbe far riflettere qualcuno. Sì, anche se comunque la Microsoft ha detto che la lotta alla condivisione illecita dei contenuti andrebbe comunque inasprita, cioè su questo non si tirano indietro, ma non a scapito di certe libertà fondamentali dei netizen. Comunque, esatto, io penso che queste libertà fondamentali sia la diffusione del loro software, che grazie alle copie pirata è diventato monopolio, e tutti i nostri computer hanno questo sistema operativo orribile, che è quello di Windows. Ci voleva questa grandissima sparata a zero su Microsoft. Sì, dopo che Cicillo ha detto che... Il periodo del 98 e del 95 è successo questo, sbaglio. No, vabbè, io diciamo che giusto per aggiornarti anche su questo. Visto che anche Microsoft è contro SOPA, io ho detto, ma forse devo rivedere la mia posizione, sarà che mi sono sbagliato, insomma. Sì, no, ma ti sei sbagliato a dire questa cazzata enorme. No, hai parlato dell'ultimo, parlavo precisamente del 95 e del 98. Sì, assolutamente, insomma. Va bene, il grandissimo Garolf, che salutiamo come abbiamo già salutato più volte in trasmissione, ci ha fatto la sua grandissima comparsa, incredibile. No, ma ci stava giusto per spiegare appunto questa giornata internazionale di protesta. Sì, di protesta. Infatti Garolf anche Cosenza. Senza Garolf chi protesta? Dal suo piccolo, così come le giornate mondiali contro il DRM fa sentire la sua importanza e presenza contro il SOPA. E ricordiamo tutte che... Tutte le guerre per i diritti digitali. Sì, è vero, è vero. Esatto. Ricordiamo... Io mi richiudo nella mia protesta. Allora, ciao caro. Ti lascio un saluto. Ciao, ciao, caro. E ricordiamo appunto che effettivamente il tu tu tu del telefono ci ricorda che sulla pagina mondiale della protesta contro il DRM c'erano dei paesi del Portogallo. Andrea Blues che sta si è proprio sciolto completamente. Sì, sì, è proprio ma poi un DTC pizzi, cioè, non lo so. E poi c'era Cosenza, voglio dire, c'era l'Università della Calabria. And you know. Con noi del show to flow che facevamo la nostra cazzo di protesta. Boom. Saccio. Oddio. Io volevo ricordare che l'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero. Mamma. Voi non potete capire cosa sta succedendo al di là del vetro. Dobbiamo introdurre le webcam assolutamente. Cioè, sti pezzacci, voglio. Se non è Blues Quest, cazzo. Cioè, noi proprio stiamo diventando. Ci citiamo con poco, diciamo così. Questa è una versione letteralmente un po' ridotta del blues, ma insomma, ridotta, io non direi, forse io estesa, direi, XXL. Io direi una versione orgasmica del blues. Sì, certo. È Joe Bonamassa. Joe Bonamassa con Blues Deluxe. Questa chitarra sta veramente parlando, cioè sta parlando. Sta parlando mentre sta godendo, sta che sta facendo? Sta facendo di tutto. Ci dicono dalla regia, noi nerd dominatori della scena, in questa trasmissione molto molto più blues del solito, che siamo fuori tempo massimo. E questo ce l'ha detto i podcast. Sì sì, i podcast purtroppo devono annunciare che siamo... L'autorità arrivati. Oggi è i podcast. Sì, ma siamo... Un contenti. Despota soviet oggi in regia. Non direi questo. Non direi questo perché il grandissimo Ciccino... Guarda come si è scaldato. Ah, c'ho già un pezzo nella scaletta, non mi fate incazzare. Non farlo. Ci sta minacciando, ci sta minacciando. Il colpo in canna è il suo, attenzione. Vabbè, al di là di questi voli pindarici delle nostre menti, volevamo ricordare a tutti quanti che noi siamo ancora una volta i Mozilla Bros. Siamo Ciccillo in regia. Ciao ragazzi. Andrea Blues. Grazie a tutti. Oggi abbiamo cercato di darvi un po' un assaggino di blues, un assaggino di libertà secondo le nostre idee e opinioni. E che assaggino. Abbiamo ascoltato diversi gruppi, non solo blues, Araya Heep, Emerson, Lake & Palmer. Abbiamo citato Ronnie James Dio, Jimi Hendrix. Siamo passati dagli orizzonti rarefatti di Franco Battiato. Ci siamo presentati, Ciccillo, possiamo chiudere adesso. Quindi io e Cicillo vi ringraziamo. Vabbè, dai. Sì, sì, vi ringrazio anche solo questa volta. Questa terza voce. Lorenzo, sì, sì, sì, questa terza ma non voce. Possiamo nasconderlo perché l'anima, se vogliamo, insomma, esorbitante. Quell'anima particolarmente adrenalinica della nostra trasmissione. Il nostro adrenaline cocaine blues, Lorenzo. Bene, ragazzi, per questa... Qua stanno scambiando improperi. No, non è vero. Sì, sì. Per questa volta abbiamo finito, vero? Sì, sì, sì. Per oggi abbiamo finito. Vi passo l'ultimo pezzo. L'ultimo poi... pezzo che, se mi dai il piacere di annunciarlo. Sì, stavo annunciando il successivo. Io comunque, vabbè, sarà una sorpresa per tutti. Il successivo, diciamo. Quello. Vida cavissifa. Vida cavissifa. No, no, non ci sono problemi. Tanto dopo questo stacchiamo i microfoni e veniamo direttamente in cabina di regia. Comunque, il prossimo pezzo, dopo questo Blues Deluxe di Joe Bonamassa, che ancora mi sta facendo ribollire il sangue nelle vene, vi passeremo Keb Mo. Sì, la prossima volta un ligama, Lorenzo. Sì. la sua Perpetual Blues Machine, dedicato sentitamente ad Alex Blues. Bene ragazzi, ciao, a martedì prossimo. Ciao. Mercoledì, quale martedì? Mercoledì, vabbè. See you soon, Blue Sun. Si è sbambato. Se questo blues arriva a Milano, un saluto speciale. Esatto. Due saluti speciali. You had me hanging on your arm when I found out you were a fake. You ran up and bit me like a snake, and I wasn't ready to let go and let all my feelings show. Tell me why you wanna be so cold, why you wanna be so mean. You gonna let your true color show. You're a perpetual blues machine. We could have been just fine if you'd have only been all mine. I was for real, but you did not know that you were stepping on my heart as you were walking out the door. Now I know just who you are, and it's a damn good thing we didn't get too far. I'm not the one that's right for you. You need a man to do your rolling like you want him to do, baby. Why you wanna be so cold? Why you wanna be so mean? You gonna let your true color show. You're a perpetual blues machine. Let your true color show. You're a perpetual.